qualcuno che mi sente? Io, Fabio. Va bene. Tu mi senti? Certo che ti sento. La torta l'hai preparata? Bravo. Guffetta, guffetta, guffetta, guffetta. Guffetta. Tocca la maglio. E tappava. E maglio. E tappava. Scritto Gio Maria Maglio. E che faccio non è dormito, c'è il roccio abbrongiato. Abbrongiato c'è Gio Maria Roccio Roccio. E qui. Gio Maria, abbrongiato Cicci. Eia. Colombra. Senta, io sono mitragliendi, no, che la mitraglietta, se offendimi. Oh. Come sei a casa? Ma a mare non si è andato. Mi sono saprare rientrato. Mi sono un po' bruciato le cosce, ma non la mascola. Beh, mi ha tutta la voce, l'hai bigliato, invece di bigliare a poco. Gio Maria, guarda, sotto l'ombrellone c'era freddo. C'era freddo. Sotto il sole è troppo caldo, boh, non sappiamo chi sia. E poco fanno male. Sì, no, e beh. Sono bruciato. Sono bruciato. Poi nelle cosce me l'ho messo prima di partire da qua, la protezione. Poi arrivo giù e mi ha fottuto un mattes. Ma c'è quella, una crema. Se te la passi bene, ben messa, si fa meno male, dai. Così che è la prossima, cerca di pigliarla poco a poco, invece per la tutta la volta. E poco fa di male, no, saranno. Gio Maria, brutto, brutto, brutto nella schiena, tanto nelle cosce tanto quanto, ma nella schiena è bruttissimo, eh. Io l'ho avuta una brosatura anni fa, ma credimi, stavo uscendo di testa. Ah, ma quindi intendevo il bello, oppure che si è bruciato e era il mare di Murta, lì. Già sai, intendevo che è bruciato e di muro. Ma chi su, non ti vas a pigliare l'usore, non ti vas a pigliare, lui è troppo agarri, non la vas a bruciarlo. Facciamo qualche cosa. Cazzo, da un bel danno che io non ho più l'usore, va bene però, sono da andare via la cabina, va. Però le bruciature così, va di male, ma male però. Granutimi, cado dei cocchi, oia! Lo so, Gio Mari, l'ho cimbiato tutto in una buccia, vabbè. Nella schiena, meno male che mi sono messo la protezione un po', già sto, nella schiena quasi niente. Le cose proprio mi fanno male, mi bruciano. Graziato, si sa, si farà da male. Se mi farà, ma bisogna io. Non so, Gubo. Sono andato a piccare Graziano. E mi rifà lo chef. A piccare bene. E allora poi si fa in sarata. Lui. Ui. Attento lo chef. Chissà cosa combinerà, vai. Vabbè, dai, lui, ci sentiamo dopo. Gio Mari, mi sta a casa, va, mi ha appena finito di Maria di Brancia, me ne salgo a casa. Domani, Gio Mari, ciao, buona serata. Ok, ciao, aspettate, ciao.